ci vuole parlare anche lì. No, io da quando ho cambiato dispensore sembra così e ha aumentato, anche io ero così, ma ci vediamo, non avevo paura. Ho cambiato dispensori, li ho fatti da 120 perché mi servivano lunghi, e praticamente ha cambiato, vabbè, 1,1 è accettabile, non è niente di che. Come 1,1 è accettabile? 1,1 è il migliore risultato, è 0, vuol dire che non si muove, quello che diciamo 0 è 1 rapporto a 1. Cioè eroghi 1 e non ritorna niente, non ritorna nulla, zero ritorno di onde stazionarie. Va bene, quell'antenna lì, Tonio, come quella tipo la stella, confermi? Sì, Massimiliano, non Tonino. Sì, è come la stella, già. Alta 6,15 m, leggermente più fina, diciamo, della Mantova, molto radiale, tipo la Mantova Turbo. Ti dico che questa la danno a stare a forza la Mantova. Beh, scusa Massimiliano, se mi è venuto tu, io non so perché, sì, ce l'ho presente quell'antenna, e funzionava molto bene, e tra l'altro ricordo che quella lì teneva anche potenza, a differenza che la Mantova, generalmente il cavettino va sostituito con l'interno, perché se gli davi un po' di power si bruciacchiava, mentre quella la potenza la teneva, un po' tipo la Stellar. Che hanno il polo caldo un po' più consistente, e quando devi, se usi amplificatori, ma io meno male non ne uso, vado sempre liscio, non, generalmente vado mai oltre 4 kW. Buono, va bene, ma io non ne uso, però voglio già fare, la fate dare in città. E la muore di tirare uso 201 minuti, 250, no? Poi in città qua, poi sempre le radio qua potrebbero anche andare monofrequenza, monocanale, la mettiamo sul 10, saldata, e rimane lì. No, vabbè, dai, poter comunque avere una... Cioè che questi della... proprio stasera stavo parlando con un amico e ne ha riparato una e ha sostituito subito quel cavettino, perché quella lì è, diciamo che sono le serie più recenti che avevamo fatto prima di chiudere, usando il materiale un po' così, un po' pasticcio, il tipo la zaffa di fissaggio della bobina, io usando il tassello, il regitubo di grondaia, o di tubo, regitubo di tubo per esterno zingato, di ferraccio, per carità, gli ultimi anni di produzione assolutamente terribili. Peccato però, perché il progetto sicuramente di quell'antenna è eccezionale, ma le antenne sono antenne durano, nel senso che un progetto che funziona bene puoi continuare a produrlo, a meno che non inventeranno qualche cos'altro, ma la lunghezza fisica dell'antenna, il materiale rimane, nonostante siano trascorsi 100 anni, rimane sempre quello. Sicuramente vale, qualcuno adesso lo ricomprerà quel progetto, ma la rivedremo marcata con qualche altro nome, ma la riprodurrà. Ecco, l'importante è che migliorino quei due aspetti lì, perché quello della staffa era terribile e quello del filettino dentro è ridicolo, un filo del tubo, che potevano mettere un monofilo di rame da 2 mm, da 2,5 mm, che cosa ti cambia? Cioè, uno dice, beh, c'è un costo, ma non costa niente, cosa un pezzo di 10 cm di filo, cosa costa? Niente. Vabbè, vai, tu capisci, insomma, mi studi gli ingegneri alle volte, vai doppio ROM, facci sognare con questo Galaxy Saturn, ecco. Ehi, Marco, ma anche la carica era molto più grossa quella della Stella, mi pare che ce l'ha ancora Fabrizio la Stella, infatti arriva a 9,30 notti, no? Non so se mi spiego, da dov'è arriva a 9,30 a casa. Sì, Fabrizio c'è sempre la Stella, l'ha restaurata mille volte, ma sempre quella e va sempre molto bene. È tipo quella di Massimiliano, c'ha la carica in conduttore in rame pieno, adesso da quant'è non me lo ricordo di diametro, ma è bello consistente, chiuso dentro un contenitore in plexiglass. Quell'antenna è estremamente valida, un po' come il progetto che era della Mantova, per carità, il progetto generale, due fesserie da sostituire. Infatti Fabrizio, in questa che sta riparando la ripristinata, la staffa in alluminio eccetera, così come il progetto iniziale. E comunque stavo seguendo quel progetto nuovo che stanno facendo su quella Mantova su internet. Fra poco dice che uscirà sul catalogo, l'ho visto, beh, carina giornata anche come forma, come design, speriamo che sia fatta con materiali decenti, che poi non, per cercare di fare una cosa di prezzo, poi non venga fuori un pasticcio, perché l'importante, ecco, proprio un paio d'ore fa che ne stavo mangiando una di Mantova, i tubi erano belli in anticorral, belli resistenti, belli consistenti, cioè era materiale serio. Adesso i materiali, per cercare di fare, di avere un prezzo basso, perché c'è poco da fare, ci sono pochi soldi e ovviamente tutti cercano un po' di risparmiare, però il risparmio così su un'antenna che tieni 20 anni sul tetto, di risparmiare 30 euro mi sembra veramente stupido, fra virgolette, perché poi c'hai un decadimento di prestazioni, una durata nel tempo nettamente inferiore, perciò che cavolo di risparmio. Però le leggi di mercato fanno sì che poi si vada a risparmiare talmente tanto che il prodotto poi non viene squalificato, ha sul cartellino rosso. Vai Massimiliano. Sì, ma infatti è così, perché vedi bene che la moto va fuori produzione, per quale motivo? Perché tu prima la compravi e ti durava 30 anni sul tetto e non la comprava più nessuno, e sicuramente sono sparito per quello. Adesso giustamente diciamo, gli altri tipi di antenna fanno schifo, diciamo, scusando la frase, perché gli allumini sono tutti poveri proprio di alluminio, perché tu prendi l'ultimo manto, per esempio, che hanno fatto, non sono neanche a mettere a paragone con le prime, ecco, per fare un esempio. Però forse è rientrato Claudio. Ripeto, ma già un secondino che mi allontano, io vado tutti a capire. A quanto dice lui, dice che sarà un materiale che dirai dopo 30 anni, dirai, cavolo, ancora sul tetto. E lui non ha detto così, vabbè, ha detto una parolaccia. E dice, cavolo, ancora sul tetto la mia antenna. Sarà una di quelle antenne tipo quelle di anni addietro, che dureranno nel tempo perché il materiale è un materiale di prima. Ma chissà, vediamo un po'. Vediamo un po', ho visto le fotografie, è carina esteticamente, poi però bisogna vedere che cosa poi, quando il prodotto è finito, insomma. Mentre ho visto quella Gold Eagle per macchina, per veicolare, diciamo, e mi è piaciuto soprattutto il prezzo, non so se l'hai vista, che tra l'altro ha ripreso un po' la forma Gold Eagle della linea americana, della banda cittadina, sicuramente è una delle top leader in assoluto degli apparati radioamatori, un po' con radioamatori, perché comunque faceva i 10 metri, ma insomma degli apparati per la banda cittadina, i 10 metri a valvole che producevano negli Stati Uniti. L'hai vista? Già. No, è la prima cosa che sento, Marco, sinceramente non l'ho vista, ci andrò a vederla. E cos'è, un'antenna alta oppure un'antenna media? Ha un auricolare che ha la, tipo la PLC, una cosa così, però c'ha la, diciamo, l'elemento della base, cioè no, un'immagine diciamo che è caratterizzato tutto dal tornito dal CNC, lavorato in CNC dal pieno in ottone, dice, io ho visto un po' di fotografie, il prezzo è 200 euro, è una veicolare, dovrebbe essere forse su 1,60 m, 1,80 m lo stilo, no 2 metri mi pare, 2 metri lo stilo, aspetta che accendo qua, vediamo se c'è la fotografia, perché l'ho vista sull'iPad un paio di giorni fa. Guarda, è un po' caruccia, ma adesso stavo leggendo dei furbo, stanno andando poco con le antenne che costano poco, e dice che rendono bene quelle della, come si chiamano, le vita, quell'antenna piccola che ha radialini corti, come si chiama? Adesso non mi viene il nome. È piccola che ha radialini corti, però già mi sa di boiata, perché per il piano di terra i radialini non possono essere corti. Se vuoi un buon piano di terra devi metterla sul tetto e avere radiali. I radiali devono essere 2,75 o un quarto d'onda, o devono essere caricati, ma diminuisce il rendimento dell'antenna. L'ideale sarebbe proprio avere dei radiali da 2,75 o da 5,50 sul piano di terra, se vuoi garantire un buon effetto, una buona condizione di radiazione. La Venon si chiama, Venon 5 ottavi. Guarda, io l'ho vista da vicino, c'ha dei radiali molto spessi, quelli le cornacchie non te le rompono di sicuro. Il radiale sullo stilo centrale è più fino della mantova, però i radiali, infatti quando me l'ha detto, ho detto, ma questa qui è un'antenna VHF, non è possibile. No, è un'antenna CB. Cavolo, siamo andati a guardarla sul cartambolo e così era, è una 5 ottavi, costa 58 euro mi pare. Stazionarie, la piazzata stasera, Franco, va molto bene. Sì, l'ho sentito un'oretta fa, sì, adesso stavo guardando, mi pare che l'abbia anche piazzata un amico ad Alghero, ne aveva parlato, che aveva sentito appunto che c'era questa antenna, e niente, però ti ripeto, l'ideale per come rendimento avere un buon piano di terra e avere nella parte bassa il radiatore deve vedere un multiplo della sua frequenza, l'ideale. Poi certo ci può funzionare anche lo stiro da solo, basta che magari il palo poi sia piantato per terra e sia a massa e la massa sia efficace, e poi lì dipende da che tipo di piano di terra uno ha, perché si va in bredda, il rendimento col terrometro uno vede che c'è un'impedenza bassissima, se invece hai un buon piano che va bagnato ed è ottimo conduttore, allora crea un buon piano riflettente. Non a caso il miglior piano riflettente del pianeta che abbiamo è il mare. L'ideale è avere uno stilo al centro e sei così su una barca, è la condizione più performante. Altrimenti bisogna cercare di riprodurre il piano di terra, e i radiali hanno quella funzione se uno non ha un buon piano di terra. Se poi uno ha la fortuna di avere un tetto che è tutto con la lamina di metallo, cosa ne so, tipo un fogliolino d'alluminio, ecco perché uno dice, cavolo, questo c'ha la stessa antenna, uno gli danno ottimi risultati e l'altro non lo sentono neanche. È per forza, dipende da che tipo di piano di terra uno ha installato e com'è realmente la sua condizione operativa dell'antenna. Gianni, doppio runa, questo è Marco Scorpio. Sì, vabbè, sarà sempre meglio della mia, che radiale non ne ha per nulla. E vabbè, ho fatto una mezza cavolata a comprare con l'antenna, ma sono mezzo pentito. Più avanti prenderò un'antenna più performante, quando parte questa qua me la prendo nuova. Adesso per il momento la lascio andare così, poi prenderò qualche antenna, se esce quella della Mantova, quella nuova della Mantova, che guardi il furbo, dove va, e poi vediamo un po' di cambiata. Ma comunque questa qua per il momento sta andando, l'ho aggiustata perché è stata piazzata male, infatti è quello, che praticamente c'erano le misure da rispettare, che la messa non si è reso conto, l'ha messa troppo in furia. gli occhi, quindi era in cima, e per quello quando c'è stato il vento non ce l'ha fatta resistere ed ha fatto delle spaccature, ma quelle spaccature erano solo all'inizio, quindi l'ho rientrata in dentro di nuovo e gli ho messo tre fascette in acciaio e tiene bene. Ma ti ripeto, dipende da che tipo di piano di terra ha. Se uno ha un lastrico solare con un trattamento con, che perciò è un bel piano riflettente, perché di materiale che comunque è conduttore metallico, tipo trattamenti a base d'alluminio, roba del genere, anche se non c'ha i radiali l'antenna funziona alla grande. Dipende da come vengono installate le cose, Gianni, da come il principio di avere tanti radiali è perché si dà vantaggio, nel senso che indipendentemente da come uno ha il tetto, di in che condizioni la piazzi, gli riproduce già il piano di terra ideale, e allora lei va bene in linea di massima in tutte le condizioni che va a essere collocata su un tetto o qualsiasi muretto o qualsiasi tipologia di condizione. Diverso è invece un'antenna che non ha radiali, dove lì bisogna fare particolarmente attenzione intanto che tipo d'antenna è, come è realizzata. Quella mi sembra che sia un dipolo unidirezionale verticale, pertanto dei radiali potrebbe farne a meno, visto che all'interno del suo tubo di fibra di vetro, se non ricordo male, mi pare sia fatta così, così a memoria adesso non mi ricordo, ma mi pare che sia un'antenna di polo verticale, polarizzato verticale, perciò c'ha il polo caldo verso l'alto e l'elemento poi di contrappeso di massa verso la parte bassa, perciò ha già un suo, è già simmetrica come antenna, non ha bisogno di ulteriori radiali perché è costruita in un determinato modo. Ecco, infatti ti dicevo, ripeto, dipende da che tipo di antenna uno ha e da come è realizzata, capito? Vediamo se è detto Massimiliano, sì. Sì, dai, che stavo aspettando a rilanciarmi perché devo scendere giù, che mi ha chiamato mia moglie e mi devo assentare un secondo, ma devo scendere al piano di sotto. Ok, se in caso che ci siete riprendo l'otto, se no vi saluto cordialmente momentaneamente, ok? Sì, Massimiliano, ma Claudio è rimasto, avanti comunque, Marco, ecco, saluterà Massimiliano qui, ti faccio interrogare. Claudio non riprende, allora riprendo io. Ciao Massimiliano, ci sentiamo alle prossime, buona serata. Kappa, grazie, ciao. Kappa, ciao. E così è, questa Venova adesso da vedere, magari come va, non so, io vedo le fotografie, ma il materiale non so. Franco arrivava fortissimo, ma non è molto lontano qua da casa mia. No, non è lontano. Abita più o meno vicino a casa mia, dai. Cosa ti stavo dicendo? Le cose, hai visto come c'ha i radiali, tipo svastica rimangono, non rimangono dritti normali, rimangono tipo svastica, capito? L'ho visto, vabbè, quello non vuol dire niente. Se ne ha tre radialini, non vuol dire niente. Beh, mille volte vediamo dove, chi la vende, se c'è qualche foto in più o se c'è qualche video, vediamo se c'è qualche video. Guarda i forum a vedere che cosa dicono che per il prezzo antenna, per il prezzo che ha, dice che va benissimo, non bene, benissimo. Adesso ho trovato un video, ma spero che me lo guardi. Oui. Marco. Ehi, stavo ascoltando già. Sì, le prove in distanza sono interessanti, sempre che ci sia qualcuno vivo, Alghero, a Polottore c'è ancora, insomma, qualcuno di disponibile in radio. E dintorni, dai. Ciao anche a Marco. Ehi, ciao Marco, adesso io ho trovato qualche video, adesso voglio vedere un po' com'è, perché mi sembra un po' la staffa, la solita staffa di produzione americana, pure riprodotta da tutti, la staffa C con dentro poi il solito elemento isolatore nella parte bassa e il tubo, tipo l'antenna tua, Marco, per intenderci. Sì, la mia, i radiali sono tre radiali da 1,30 ciascuno, tre radiali da 1,30, che poi questa sarebbe me, la vecchia BA27L, non hanno inventato niente, e ho cambiato il nome, ce ne sono tante versioni, sono tutte uguali, BA27L, siamo lì. Alluminio semi 3,5 circa, perché dubito che si arrivi a semi 3,5. Vedo che resiste al vento, questa quando si sfascia poco male, però pesa 2,5 kg, niente tiranti, palo corto corto da meno di 4 metri, 3,5 per essere così, finché dura dura. Sì, questa è, le conosco benissimo, l'ho anche avuta quell'antenna, ma l'ho avuta parecchi decenni fa. Quel progetto è un progetto che poi fu utilizzato dalla Intec, ma è un progetto di un'antenna di produzione americana. Mi pare che fosse la Hatzler che l'aveva prodotta, ma stiamo parlando di 45 anni fa. Poi i brevetti scaduti e poi riprodotto da altri e poi commercializzato anche dalla Intec e tante altre aziende, la CTE e tanti altri. Adesso sto guardando, sì, praticamente è sempre così, è come quella lì, mi sembra, Marco, è più o meno tipo la tua. Adesso voglio vedere se perché non si vede, ma sicuramente c'è la bobinetta di cortocircuito del polo caldo con la massa, perché c'è l'isolatore, sto guardando questo video, ma per il resto mi sa che l'antenna, e a parte la caratteristica simpatica di questa S dei radiali, la staffa è proprio identica, mi sembra, la staffa, i tube, materiale sembra alluminio un po', poi bisogna vedere che tipo di alluminio è, ma sembrerebbe anticorrogano, o comunque un alluminio di buona qualità, sembrerebbe così al video. Ma per caso tipo Silver Road, una volta esisteva un'antenna americana, sempre 5 ottavi, 3 radiali disposti a 100, distanziati di 120 gradi, no? Mi pare Silver Road o roba del genere, adesso non mi ricordo, roba molto vecchia, E Marco, ti dico, poi fu marcata in diversi modi, ma l'antenna chi l'aveva prodotta era la Hatzler, poi la Hatzler fu, come capita, vendono i brevetti, ti permettono la produzione utilizzandolo, pagandogli una royalty, capito? Ma è un'antenna che gli americani usavano 45 anni fa, 45 anni fa, quell'antenna come concetto. È sempre la stessa, sto guardando, è uguale alla tua. Bisogna vedere, poi non so, qua nei allora vediamo quest'altro video se c'è qualche altra indicazione in più. Vediamo un po', aspetta, vediamo un po', un altro video. Sì, allora la Venom è più corta, è un po' più corta, 5,80 m. Ne avevano messo più bobina e meno stilo per contenere le dimensioni. Questi radialini corti corti, vabbè, un po' ambigui però. Poi la mia bobina è a vista con un astuccetto del diametro dell'antenna stessa, di presumo, anzi spero sia policarbonato, trasparente o quasi. Lì invece è coperta, vedi il metallo, non vedi la bobina nemmeno. Sì, ma è sempre lo stesso, e poi magari una produzione piuttosto che un'altra, cambiano piccoli particolari, ma la filosofia è la stessa, come hai detto, per accorciarla fisicamente gli hanno aumentato un po' di giri di filo di rame e l'hanno riportata in risonanza. Qua adesso sto vedendo un altro bel signore che l'ha comprata, se la vendono già con il tubo inserito nella staffa. Non è molto grosso il tubo, adesso a giudicare dall'impugnatura della mano dell'acquirente non è di dimensioni, non è come quello della Mantova, che la Mantova o tipo quello della Sirio, che è molto grosso il tubo, e questo qui è un tubo forse da 3 cm, sui 3 cm dovrebbe essere più o meno. Conta che pesa la metà della Mantova, la metà, quindi è ridotta all'osso, dai. E poi la Venom ha le fascette, mi pare, e la Midland ha le viti, due viti per ogni elemento, non so cosa sia meglio, vabbè, io ho tutto autovulcanizzante a furia dura a ogni giuntura. Dove era possibile metterlo, l'ho messo alla PL anche, tutto stagnato, poi la 27 tiene l'avanzo, quello che mi frega a me è il cavo, sono 50 metri, io sono al piano di alzato e ci sono altri tre piani più la, il terrazzo. Vai Gianni. Sì, vabbè, comunque se il cavo è buono, la perdita non è, non è troppa, dai, se è un buon cavo. Tu cosa hai messo, l'H155 Marco? No, magari, il 213 è più grosso, cioè se me l'avessero detto in tempo avrei messo quello, mi pare la, la stessa perdita, cioè perde molto meno del, del 58, vabbè, comunque questo c'è, quello, questo tengo. Per città, vabbè, ce n'è d'avanzo, e non solo, qualche piccolo di ex, quando, quando ci graziano con la propagazione. Ma gli altri spariti, c'era Claudio, c'era Massimiliano, c'era Luca, tutti spariti. Massimiliano l'ha chiamato giù la moglie, Claudio non lo so, magari al telefono, non so cosa dire, non ha risposto, l'abbiamo chiamato e non ha risposto. Claudio! Puglia! Sì, ma comunque già ti dicevo, se tu avessi dei dubbi, no, riguardo alla, a quella tua, non pigliare mezze misure, cioè gli ho detto anche altre persone, la Sirio 327, la più imponente, alias Blizzard, quello con l'anello che tiene i radiali, antifischio, boh. C'è roba grossa, pesa 6 kg, è un'antenna simile Mantova, non, non prendere quelle leggere, se devi fare un'installazione veramente definitiva, capito? Già, tanto tu puoi tirantare, quindi il problema non c'è. Sì, posso tirantare, la dimostra sempre col problema, con la cervetta, se cade con l'antenna fa danno. Se cade un'antenna piccola, se cade anche una persona, fa meno danno che una grossa. Assicurala. Ma già, invece di mettere pali fini, metti un palo da, da 2 pollici, un dalmine e basta. Metti un palo dalmine magari da 4 metri, da 3 metri e mezzo. Sì, come ha detto Marco, io ho comprato quella lì, ho fatto un po' di analisi di che cosa c'era in giro e ho preferito comprare quella lì, la Blizzard 827 o come cavolo vogliamo chiamarla, ma comunque quella lì con l'anello antifischio, fischio non fischio, comunque è, ti posso dire che è solida, è fatta bene ed è ecco, tipo Mantova o meglio, perché il polo caldo della Mantova c'aveva quel problema del filettino, questa Blizzard invece c'ha veramente un pezzo di alluminio tornito che va direttamente sul polo caldo, perciò puoi, e sulla bobina di cortocircuito, perciò puoi mettere, e io l'ho già provata, puoi anche metterci 2 kW, non succede nulla, capito? E l'antenna è solida, è veramente solida. L'unica critica è come sempre fanno queste antenne, fa l'antenna da 7 metri e poi mi fai il tubo di montaggio, di carettaggio per il palo, per questi palettini TV, ma va a fa Napoli, ma mettimi un tubo da 2,5 pollici, poi con i bulloni che posso stringere e serrare delle misure del tubo che ho, ma dammi, mettimi in condizioni di poter fare un montaggio serio, perché un'antenna, se monti una di quelle antenne lì, che metti con un palo da 4 metri, un dalmine, dove vai? Non va da nessuna parte, senza le tiranti né niente. Ehi Marco, lo sai cos'è il problema? Il problema è che io non posso bucare il muro più di tanto, potevo mettere solo i tassini, non posso fare i buchi per incementarla e farla, e quindi ho dovuto mettere delle stampe da 14, quindi la tassello dell'espansione, sì. Quindi quelle stampe lì non lo so se tengono pali grossi, capito? Boh, non lo so io nel caso tuo come era la situazione, che cosa si può fare, ognuno ha un suo problema, le sue problematiche, però dico, indipendentemente dalla tua installazione, ma criticare qua di queste antenne è la tipologia di fissaggio che è un po' insufficiente, cioè un'antenna così lunga, dammi modo di poter staffarla in maniera seria, o mettimi una doppia staffa e posso agganciare a qualsiasi tipo di tubo, ma non darmi questo tubettino che deve entrare dentro, ho dovuto fare un lavoro, ho dovuto tagliare diversi tubi di diametro differente per poter poi poterlo installare su un palo come quello che ho io, dove ho pali seri, non ne ho di questi palettini di tipo TV, rughe e poi si piegano e come hai detto tu c'è pericolo. Già dormo, vabbè, io dormo tranquillo, me ne frego, ma dico già se siamo abbastanza preoccupati sempre per questa cosa delle antenne sul tetto. Perciò insomma uno auspica di piazzarla nella maniera migliore, o perlomeno che gli diano un prodotto che abbia già dei presupposti per poter essere fissato in maniera seria e decente. Oh, la mattina mi ha durato 12 anni senza cadere con quel palo lì. Volendo l'assicurare, ho letto che è possibile, ma cosa bisogna far vedere l'assicurazione? Qualche certificato di chi l'ha installata? Come funziona? Io sono a digiuno. Avevo letto su un forum, non so se era la Fidenza o la GRK, cos'era, che anche un CB poteva assicurare l'antenna, però qualcosa lo vorranno qualche foglio in mano, qualche carta, non lo so come funziona. Marco. Ma guarda, dal punto di vista dei per la CB non lo so, noi radioamatori, io ho la polizza assicurazione dell'Associazione Radioamatori Italiani e la polizza protegge non per i tuoi danni ma per i danni che puoi arrecare a terze persone, animali, cose eccetera eccetera, ma non i tuoi danni, cioè se l'antenna tu te la rompi tarnaggi, ma il danno che fai e cade giù e sfascia una macchina, loro pagano quei danni lì. Ma so che fra l'altro qualcuno si è fatto anche un'estensione esibendo questa cosa, ha chiesto a compagnia di assicurazione, perché ci sono delle polizze che prevedono protezioni assicurazioni sulle antenne, basta contattare un paio delle aziende di riferimento e non credo che ci siano problemi, magari viene un perito, fa la verifica se ritengono che è confacente le loro necessità, ti assicurano. Adesso non so se sarà 100, 150, quanto è, ma ritengo che sia una spesa del genere, intorno ai 150-200 euro penso che verrà a costare una polizza assicurazione annuale, più o meno, penso, poi non ti so dire. Cacchio, per un antennino del genere mi compro un altro baracchino, piuttosto. Vai Gianni. Sono voi diversi vedere le cose, Marco non la pensa così perché le antenne di Marco non sono come quelle nostre. Io un po' di problemi ce li ho, per dimensioni e per pesi, per carità, insomma un po' di pensieri ci sono, perciò avere una polizza assicurazione non è male, ecco, meglio averla, mai ci sia un problema. Però è meglio essere insomma almeno un po' tutelati, insomma tutto lì. Se ci pensi, Marco, non è una grossa cifra, però certo sono sempre tanti soldi, ma non così tanti se pensi che possa accadere un radiale e il danno che può arrecare a un passante o a una macchina. Perciò magari negli anni addietro queste cose potevano essere trascurate, io addirittura come legislatore l'avrei reso obbligatorio una cosa del genere, perché comunque installiamo delle cose importanti, più o meno importanti, ma un briciolo di garanzia anche per un passante, per una macchina, insomma ci dovrebbe essere, dai, è anche una questione di correttezza nei confronti sociali, diciamo, dai. Un attimo, Bianco, per me un attimo, mi sta mancando la voce. Ma te ci intendici? Beviti un po' d'acqua. KK. Beh Marco, ma a te con le antenne i problemi non te ne hanno mai dato, vero? Perché sei in una zona magari meno ventosa. A me? No, a Marco Scorpio. Poi già, io sono più esposto di in assoluto di tutti, prendo il maestrale in pieno, il maestrale come arriva e sono io il primo che se lo becca, no, io sono esposto da paura, sono a circa 300 metri sul livello del mare, a parte un piccolo rialzo che c'è poco più avanti, ma il maestrale, i venti me li prendo in pieno, perciò sempre massimo rispetto e massima attenzione nei confronti delle condizioni meteorologiche, che fra l'altro sono anche in questi ultimi 15 anni, 20 anni, 15 anni, 10 anni sono sono diventate sempre molto più complicate, bisogna sempre più esagerare negli impianti perché il vento ha cambiato modo di spirare e di intensità, mentre prima non c'era bisogno di grandi cose, tiranti, controventi, adesso non c'è da scherzare, bisogna veramente fare le cose, cercare di fare le cose in maniera esagerata, dico esagerata perché arrivano delle bordate di vento, delle tempeste da paura. Rispetto a te già che sei magari 150-100 metri più giù, ma non sai la differenza che c'è di vento, non è la minima idea, guarda, a parte che cambia anche la temperatura, da qui rispetto alla città di 200-300 metri, come scendo più giù ci sono già 2 gradi, 3 gradi di differenza nella temperatura la mattina quando esco. Riprendi Marco se puoi, se hai bevuto, altrimenti ancora te già. Marco, lo riprende, dai, lo lasciamo bene. Guarda Marco, che a me, io ce l'ho proprio di fronte al mare, si vede a casa, si vede il mare, le barche, si vede tutto. Praticamente quando c'è il maestrale tu devi vedere l'antenna mia come si piega. Ma quelle antenne sono fatte apposta per flettere, sono antenne studiate proprio per i venti, per cose, sono piazzate bene, c'è scritto che tengono 160 km orari. Sì, ma 160 km orari non lo so poi se realmente ritiene, ma sono in fibra di vetro, così come io ne ho diverse di antenne, ho la 7000 che così è in fibra di vetro, la struttura è in fibra, però poi sai, il vento è anche bastardo, nel senso che non spira sempre allo stesso modo, oramai ci sono delle condizioni veramente particolari. Dove il vento spira con è proprio cambiata il suo modo di spirare, mentre prima faceva dei colpi lunghi e forti e poi dei momenti diciamo di richiamo e rallentava, diminuiva l'intensità e poi ripartiva dopo pochi secondi con delle spinte costanti, continue e forti, e questo qui era il vento che avevamo prima. E invece in questi ultimi anni il vento dà delle bordate da paura, poi c'ha dei richiami di 2-3 secondi e poi un'altra bordata schioccata da paura e poi breve richiamo e poi nuovamente schioccata, cioè ha cambiato veramente il modo di comportarsi, e questo mette in grande difficoltà le antenne perché non fa in tempo a ritornare l'antenna indietro nella flessione, nella condizione di riposo, e che il vento invece quando è ancora curvata gli dà un'altra botta e poi ancora un'altra botta ancora e spezza anche le antenne che magari sono calcolate per 160 km orari ma con un vento che spira costante e non con un vento che invece magari non è da 160 ma è da 130 km orari, però ti dà 4-5 raffiche una dietro l'altra senza tempo di recupero e te la spezza, capito? Sì, sono raffiche proprio allucinanti perché... E poi la fa girare su se stessa l'antenna a volte, la fa, sembra che faccia un cerchio, capito? La fa andare da una parte all'altra, la impazzisce. È un casotto. Hai visto, ad esempio, a Walter in questi ultimi anni, io danni ne ho avuto tanti di differenti, rompere uno, due radiali, tre radiali delle mie antenne che sono radiali dei 20 metri, radiali dei 15 metri, e perciò bestioni comunque, radiali dei 20 metri vanno a rotto, erano intorno ai 7 metri e mezzo, tipo come, ecco qua, tipo una mantova 1, spezzate di netto, in due parti, un'altra lo stesso. Mi ha fatto danno tante volte, a Walter invece addirittura gli ha proprio buttato giù i tralicci, cioè proprio anche adesso quest'ultimo tornado che è proprio di tornado si può dire, o tromba d'aria che fosse, gli ha buttato giù il traliccio, cioè tralicci, antenne, tutto piegato, tutto buttato giù a una montagna di ferraglia, capito? Cioè stiamo parlando di lavori seri, solidi, cioè con materiali di importanti dimensioni, eppure quando è così forte non ci sono storie, distrugge tutto, va. Distrugge tutto. E quindi le ha rotto anche il tetto quando ha caduto la terra? l'auto ha fatto danno, ha fatto danno nelle adiacenze, è caduto giù nella parte di un cortile, insomma, ma ha disintegrato tutto. Da una parte ma ha rotto tutto, ma ha rotto anche l'antenna dall'altra parte, che era su un grossissimo palo, ma pali di quelli di Dalmine, non palestini di antenne, palestini che possono vendere pali telescopici, no? Stiamo parlando di pali Dalmine, rotto tutto, sradicato, buttato a terra come se fossero dei fruscelli, capito? Non c'è da scherzare, quando ti becca una condizione di quel tipo lì, distrugge tutto, porta via tutto. Certo, quando è capitato qua anni fa a me, mi ha fatto un bel po' di danno. I tralicci non sono caduti, meno male, ma le antenne le ha lesionate parecchio. Così conviene sempre fare l'assicurazione, perché quando vengono questi eventi la natura non ci deve fare contro la natura, manco l'uomo riesce a bloccare la natura è troppo forte, quando si mette in testa di fare danno fa danno, addirittura scoperchi attenti, ma deve essere passata proprio in quella zona, perché poi verso casa sì c'è il vento, ma non è da quelli veri. Lì si è concentrata proprio in poche centinaia di metri, ma era già capitato anche anni fa, si è concentrato lì e ha scoperchiato anche il tetto dove Walter aveva comunque le antenne, la direttiva che ha cartucciato come un foglio di giornale, come che ha pallotto un foglio di giornale, così ha sradicato tutto, danni ingenti. È un casotto, quando arriva il vento così non c'è niente da fare, ma se invece le condizioni sono comunque normali, è bene sempre poter montare con pali tirati eccetera eccetera senza risparmiare. Adesso stavo guardando la Tornado 27, ecco, questa qui era un'altra antenna che avevo mi pare selezionato, la Tornado 27, che lo stesso mi sembra che fosse un po' abbastanza solida come antenna, se non ricordo male. Ma quella che hai preso non è sbagliato, io stavo guardando la Blizzard, quella lì, stavo quasi per comprarmi quella, e ho deciso su quella lì o quella che ho preso. Poi tutti mi hanno detto anche Gianfranco, ma no, va benissimo, questo è quell'altro, allora mi sono deciso, ho preso quella lì. Però Marco, lo faccio. Ho fatto una grossa scelta, la verità. Se prendevo altra, ma... Sì! Aspetta già, c'è un break, avanti! Ero io che volevo salutare a Marco Scorpion e a Marcolino Condo. Ciao a tutti, buonasera. Lui Natalie, ciao. E cazzo, credo di non passare, perché premono subito. E i 9 più 20 sei Natalie, ciao, buonasera, ben sentito Natalie, come stai? Non tanto bene, adesso mi devo operare all'Irmia e così ho finito. Mi hanno già operato dell'altro che avevo. Non sto tanto bene, no? Ma non ti preoccupare, non muori roba amara, perciò sei tranquillo, come che c'è una polizia d'assicurazione. Io pensavo che al povero Walter era passato quel signore che è passato l'altra volta con la moletta. No, questa volta non c'era, era fuori il padre. quella era una circostanza voluta, giusto le risate, nella tragedia, fra virgolette, le risate quella volta. Per carità, gli aveva tagliato un pezzo a zero, proprio con la moletta. No, ma abbiamo, a parte la tragedia eccetera, però poi abbiamo riso per parecchio tempo su quella storia lì, allucinante. Non mi ricordo che poi il padre non gli aveva impedito di piantare più nulla, non lo faceva più neanche entrare a casa, una volta è partito per andare dai parenti eccetera, mi ha chiamato a volte perché poi doveva ritornare, se mi costa in aereo doveva ritornare dopo due giorni eccetera, mi ha detto ma perché dobbiamo andare a piazzare antenne eccetera. Ma tipo su di sera andare di notte, e allora eravamo veramente, a parte eravamo ragazzi eccetera, beh siamo andati e abbiamo piazzato le antenne, ma c'era una tempesta, un diluvio, e noi piazzando le antenne con il vento, ho detto no, è possibile, siamo veramente fuori di testa, vabbè. E noi siamo così, ma comunque dai, belle cose, vai Natali, forza che ce la fai, rimettiti alla grande e portanti a due toni. Dai, io faccio pure te, vado a portare il cane, vi saluto tutti, ciao. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo. Alleluia. Avanti Marco per i saluti. Ciao Gianni, ci sentiamo alla prossima. Ehi Natale, avevo sentito le break, da riprendevate insieme, però non riuscivi a essere abbastanza veloce, dai. Eia. No, il calo di voce non è per l'acqua, perché mi becca sempre la mattina, ho il bisogno di togliere giacca, di non usare sciarpe, e siccome ero in zona alta, venticello ma un po', mi becca sempre alla gola, sempre, e mi faccio fregare ogni volta. Natali, dai, riprendi, io vi devo lasciare, devo fare roba qua, al di sopra delle mie... Al di là della mia volontà, come dire, non viene in termine. Vai Marco, ciao a tutti, buona serata. Via, ciao Marco, ciao, ci sentiamo, ciao, a te Natali. Ciao Marco, alle prossime, là. Comunque ci ammazzando, fai toccata e fuga tu. Ordini superiori Natali, devo andare per quello, dai. No, guarda che ce la fanno da un po' in radio, non è toccata e fuga, quant'è? Mezz'oretta, di più? No, siamo già da un bel po' qua, Natali, e tu che non c'è, no, eravamo qua chiacchierando, e saranno tre quarti d'ora. Già c'ero io, ho provato anche a entrare un paio di volte, ma ero con 4 watt, è logico che non mi sentivate. Schiacciavano subito e quindi cioè ero lento, mi schiacciando il PTT. Perché questa è una questione da kilowatt, o c'hai 5 kilowatt o rimani fuori dalla porta. Boh, Natali, io non ci ho fatto caso, ma abbiamo lasciato anche dei momenti liberi, perché abbiamo chiamato anche, era entrato anche Claudio, perché c'era prima anche Massimiliano Bulldozer, e poi c'era anche Franco California, Franco dei Santo California, e vabbè, vabbù, è così. Ciao Marco, allora, tu sei Ofio, stai andando a cenare, sto guardando la clessidra qua, mi sa che è già ora di cena per te, mi è già fuggito. È fuggito, l'altro giorno è passato qua e ha tirato dritto, invece di fermarci, gli avrei anche offerto il caffè, invece vabbè. Adesso sto sentendo chi è che sta parlando? Qua c'è una radio accesa, la gente parla, boh, ma chi li ha autorizzati? Ecco, no, ma c'è uno che sta facendo una Game Master, sta costruendo una Game Master con l'RG58, mi sta spiegando come si fa. Mi sembrava Flipper, ma non è lui. No, non è lui, no, è sempre CB Radio, però non è Luca. Luca, se ci sei, batti un colpo, ma che, niente da fare. L'antenna che fa Luca è tipo la Game Master, no, Natali, te lo ricordi? Io l'ho costruita anche io, solo che non l'ho potuta piazzare perché c'era già questa sopra. Già è un'impresa a piazzare l'antenna qua. 9 più 10 e più arrivi a Talì, senza preamplificatore. Che antenna hai? Come quella di Marco Condor, è bassa pure la mia, capito? Già va bene, è a 50, non va bene. Ha voglia per chiacchierare e fare qua e fare qua due o tre chiamate, qualche collegamento. Sì, infatti. solo che i collegamenti me li devo dimenticare, perché c'ho il 3009 che non ha manco i canali, perché è omologato e non funziona nulla. Vabbè, ma c'è, alle volte c'è una propagazione qua, non sai che sono sempre in ascolto sul 20 da sempre per monitorare l'attività della propagazione in 10 metri. E anche recentemente ci sono delle aperture bestiali in Atari, pure in FM e AM qua a voglia. Sì, a me mi piace l'HSB. Ah beh, certo. Adesso già da tanti anni addirittura anche in HF stanno. Ci sono dei gruppi che hanno rivitalizzato l'AM, che stanno riproponendo e creando insomma un po' di interesse intorno per cercare di portare dentro nuovi appassionati per la modulazione in AM nelle bande HF. E vabbè, ti volevo dire Natali, ma quell'amico che veniva a trasmettere da te, che era di amatore, non mi viene il nome attivo, che aveva la moto, che poi era partito in continente, non ho più sentito, non ho più in radio, non lo sento da un bel di anni, ma che fine ha fatto? Se è andato in continente? Ah, non lo so, io l'ho perso di vista. Finché non gli avevo costruito il dipolo veniva da me, poi gli ho fatto il dipolo, però quello più corto, che gli mancavano gli 80 metri, no? Come gli ho fatto il dipolo non c'è più venuto. Oh, ma secondo me non c'è, perché non ho più, prima lo sentivo, entrava anche in VHF, così sui punti ripetitori, ma è già un bel di anni, ma aveva detto, mi ricordo che doveva andare a lavorare fuori, eccetera, e niente, poi sai, passando sempre nella zona di Cappuccino, eccetera, ogni tanto mi capitava di incontrarlo, ma devo dire, oramai, sono passati tantissimi anni, è scomparso. E Salvatore sta dicendo, io l'ho perso di vista, ero anche fuori dalla radio, infatti mi manca un ricevitore, perché dice trasmettitore, no, se non me l'avrei già comprato, un ricevitore mi serviva HF, perché HF non è, ho capito, almeno ascoltavo di lì un po'. Pigliati uno di quelli ricevitori SDR con una pennetta, con 30 euro te lo collega al computer e ti mette e sei a posto, è finito, ci sono 12 euro, 18 euro, non è che devi spendere grandi somme oramai, no? 20 euro esagerando e c'hai il ricevitore da 0 a 200 MHz, o mi pare che ci siano da 0 a 300 MHz, da 0 a 500 MHz, vabbè, comunque ti permette di ascoltarti tutte le HF e anche le VHF. Sì, lo so, ma non mi piace, ce l'ho sicuramente da qualche parte, non riuscivo a usarlo bene. Da allora adesso ormai hanno fatto passi da gigante, ormai con una di queste pennette puoi ricevere senza problemi e funzionano bene, oramai funzionano bene, per cui la spesa è ridicola. Sì, non è che la spesa, no, io non mi veniva male a centrare le frequenze col computer. Oh, e oramai, fra l'altro, c'è il waterfall col mouse, ci vai sopra, clicchi e non c'è più quel problema, Natalie, no? A parte che oramai vendono dei mouse, l'ho comprato anche da poco io, il mouse con la manopola come quella del VFO, uguale, identico, perciò giri la manopola del VFO come giri il mouse, lo giri come la manopola del VFO, identico praticamente, identico, una manopola sembra la manopola Yaesu, identica, vabbè. Anzi, poi ti permette di vedere proprio sul computer tutto l'analizzatore di spettro, sono fantastici, oramai questa nuova tecnologia, le radio sono vuote, siccome queste radio nuove, sì, con 7300, DX10 eccetera, pesano meno di un chilo di pane, è cambiato il mondo, no? Sì, lo so, intanto fa attenzione, ma lo si va lì, e poi mi piace ascoltare di più. scusate. Prego Marco. Natalia, beh, poi ci avevi pensato, sei indeciso per quella cosa lì, perché io l'ho usato anche stamattina, ero su al centro ecologico, più su ancora, con l'antenna risolante riceve che è un bijou, antenna veicolare però per i 40 metri. Il problema è che con questa rotellina laterale, che va a passi di un kHz, poi c'è la sintonia fine, è una palla a sintonizzare, quindi io ti consiglio, se hai la possibilità, prenditi un ricevitore che abbia il VFO, un vero VFO, che vada proprio in continua, capito? No, queste rotelline laterali, per quanto riceva bene, un po' è stancante alla lunga. Poi la ricezione è ottima. Ho detto, se l'antenna è buona, se la zona è buona, lì era un bijou. Quello che non mi piace di quel ricevitorino attascabile, Marco, per capirci, è tipo il PL660 Texun, quello è proprio attascabile. E prende tutta la HF in banda laterale AM. E che quello smitter, quella specie di smitter fatto in DBU, UDB micro, DBU, no, decibel microvolt, è completamente sballato. Cioè, c'ho la tabella di corrispondenze come se fosse uno smitter normale, ma è tutto sballato, non sono valori affidabili, capito Natalia? Per il resto a ricevere serve bene, se tu vuoi, però il mio consiglio è di andare su VFO. Guarda, bello anche se questo Texun S2000, quello dovrebbe avere un VFO, c'è un rotellone, sperando che non vada anche con l'assalti di kHz, se no è finito lo scopo. Vai Natalia. No, ma non sono problema di tutti grossi, di tutti grandi. Non mi piace, no? Ero abituato a 440 io. E altri apparecchi similari, quindi non mi piacciono più. Ehi, vai, vai Marco. Adesso stavo guardando qual era, sì, l'avevo visto questo Texun S2000. Sì, ma per quello che costano questi ricevitori così, veramente ti compri un apparato HF, ti compri un apparato di vintage, una radio, ecco, tipo un 430, un 140, una... cosa ne so, però oramai credo che riesci a trovare un ICOM 700, come si chiama, 720, no, 720, sì, dico bene, 720 o insomma uno Yaesu di quel periodo lì, capito? Una radio magari bella, una bella radio degli anni passati, ma che funzionano e funzionano bene. Magari eviterei il 440 o radio così, che invece sappiamo che dopo che comunque cominciano ad avere qualche problema eccetera, ma ci sono anche a 250 euro, le volte si trovano anche qualche ricevitore della Drake, e quelli sono sempre validi, anche perché quei componenti sono tutti in aria, se c'è una resistenza bruciata la vedi subito quale che si è rotta, la dissaldi, ne metti un'altra e sta andando, la puoi imparare anche anche quello che ti porta la bomba. Break! Mamma mia, c'è un break, fermi tutti, avanti. Capo, buonasera, Antonio sono. Sì, l'ho citato, ecco, ed è subito arrivato, che non è possibile che questo Antonio. Adesso portanti a due toni Antonio Bombolo e non se ne parla più. Vabbè, riprendi Antonio, ciao, buonasera. Qua in questo Marco, Natalino e io, e poi c'era un po' di gente qua, vedo a video, ci sono 22 persone in ascolto, a te Antu. Capo, sono appena rientrato a casa, dai, buonasera Natalino, buonasera a tutti in generale, sono appena rientrato a casa, dai, adesso vado a mangiare e poi riprendo, ok, sono entrato per salutarvi a tutti. Ciao Antonio, dai, ben sentito. E saluto. Avanti Marco. QSL. Va bene, io però adesso devo allontanarmi, è entrata la signora e devo discutere alcune cose. Vai, magari ci sentiamo un'altra sera. Ciao Natalino, in gamba, su col morale, ti sento un po' giù di corda. Su. Ciao Marco, ciao Antonio, buonasera a tutti. Marco Scorpione QRT, ciao, portanti a due toni a tutti allora. Ciao, alle prossime, a te Marco. sì, mi ha chiamato mamma e mi ero sentato. Chi è entrato? Chi è uscito? Vabbè, Marco, sta andando via, dai, buona serata, ci sentiamo alle prossime. Chi ci è rimasto? Chi è entrato? E Antonio Bombolo è entrato. Ciao Marco, alle prossime, avanti Antonio. Antonio? E forse per salutare solo è entrato, dai, che è appena rientrato. E io magari ci farò la doccia adesso, cioè sono 6:30, 8-10, ehi, sarà rientrato sì adesso, ehi. Capito Natali? Guarda, tempo fa a me piaceva l'R5000, ma a trovarlo, anche se lo trovavi te lo vendevano a un prezzo molto elevato, per essere un ricevitore di circa 30 anni, dai, quando l'ho cercato io, 20-25. R5000, poi vabbè, gli SDR se stai secco e presto a casa va anche bene, no? Però per me che vuole uscire in macchina per